Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. I lavori di domani, di Anna Marino. Come si fa a diventare e-commerce specialist anche adesso, subito, visto il boom del commercio online e le prospettive future di lavoro? Ve lo diciamo noi, come formarsi per essere esperti nell'ideazione di strategia di vendita digitale, un ruolo chiave per la gestione e il coordinamento di tutte le attività riguardanti il commercio elettronico. Si tratta di una figura in grado di sviluppare soluzioni per la vendita online di prodotti o servizi, dotato sia di competenze informatiche, sia di abilità in campo commerciale. Le responsabilità di un e-commerce specialist sono molte, varie, dalla progettazione di un e-store all'usabilità del sito web, dalle politiche di vendita e metodi di pagamento fino all'analisi dei comportamenti d'acquisto. Un ventaglio che non dimentica valori come affidabilità e attenzione al cliente, che siano mamme o aziende, come vediamo oggi. E come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, e-commerce specialist, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni, la formazione anche adesso online e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, grazie a Giacomo Romani, e-commerce specialist. Il mio lavoro come e-commerce specialist consiste nell'ideare tutte le strategie che coprono sia lato marketing che lato sviluppo prodotti per far sì che il business, insomma, abbia successo online. Tu conosci molto bene i player, ovviamente, che sono su internet per vendere, ma prima di arrivare lì hai dovuto, come dire, fare un po' di percorso. Dove ti sei formato? Noi siamo partiti nel 2017, ho cercato un metodo abbastanza intelligente di partire ed è stato Amazon, e adesso ti spiegherò il perché essendo, allora, ero appassionato comunque di marketing e di e-commerce, però non avevo le competenze, quindi ho cercato di scegliere la piattaforma e-commerce che mi permettesse di dover prendere meno cose possibili per poter partire. Quindi se io fossi andato per esempio sull'e-commerce standard, che è un canale di vendita che abbiamo attualmente, avrei dovuto imparare tantissime cose, dalla logistica alle Facebook Ads, a Google Advertising su Google, eccetera, eccetera. Invece su Amazon, avendo solo la possibilità di fare pubblicità dentro Amazon, con la piattaforma Amazon, e non dovendo gestire tutto il resto, logistica, Facebook, Instagram, eccetera, la curva di apprendimento era molto più veloce. Ti sei formato però dopo aver completato, insomma, fatto un'esperienza di lavoro e dopo aver completato i tuoi studi. Quali studi hai fatto? Io ho fatto studi ingegneristici, quindi ho fatto ingegneria civile e poi ho fatto un master a New York, sempre in ingegneria civile, progettazione di strutture. Quindi, diciamo, tutta la formazione che ho fatto lato e-commerce è stata fatta da solo, senza nessun titolo di studio. Come sei arrivato poi a guadagnare? Posso parlare per quanto riguarda i proprietari di azienda. Ho anche esperienza per i miei dipendenti, insomma, di quanto può essere la forbice di guadagno di un dipendente. Però ti posso dire che sicuramente rispetto a molte altre carriere, se si fanno le cose fatte bene, la crescita è molto molto molto veloce, perché si può raggiungere tutta Europa / tutto il mondo in brevissimo tempo, cosa che con una rete fisica è praticamente impossibile. E come, appunto, guadagno da dipendente, quanta è la forchetta? Rispetto a quanto guadagnavo prima come ingegnere, dove ero tra l'altro in una multinazionale dell'oil and gas, quindi nemmeno un'azienda, diciamo, piccolissima, ora sono per tre. Dopo 3 anni di azienda, e ho dei dipendenti molto giovani che hanno ruoli comunque di management, che hanno anche loro quasi per 2/3 quello che guadagnavo io quando ero in corporate. Dipendenti che non sono nemmeno laureati. Quindi ovviamente c'è un ventaglio di possibilità enorme in questo campo, e un ventaglio anche di possibilità di guadagno enorme. Ma la cosa interessante è anche dietro i valori che ci sono, perché non solo si parla di soldi e di formazione, ma anche quello che fate, che state commercializzando, aiuta ed è veramente importante per le mamme, perché le mamme fondamentalmente sono digitalmente avanti già da sempre, già da prima del lockdown, e comprano molto, diciamo, su internet, perché quella è la interfaccia, anche e soprattutto quando hanno dei bambini piccoli, sono costrette a stare a casa. E nello stesso tempo c'è anche un valore, perché voi avete portato un presidio che è anche sanitario a essere il più possibile diffuso. Quindi dietro questi consigli che diamo oggi di formazione c'è anche un fine ultimo molto importante all'interno del vostro prodotto. Ecco, che cosa avete pensato di vendere e portare nelle case delle mamme? Confermo quello che dici riguardo le mamme. Infatti il settore è stato scelto anche per questo motivo della prima infanzia, non solo per questo, ma anche perché comunque, volendo fare un business online, un e-commerce, la mamma, diciamo che è uno dei clienti ideali, perché è giovane, è connessa, anche per il fatto che deve essere a casa sempre con il bambino eccetera, è portata di natura a passare tempo sui social e sui dispositivi, e quindi molto molto recettiva. Infatti, ovviamente, essendo lo store online, quindi la persona non può vedere il prodotto fisicamente, parlare col negoziante che glielo vende, glielo spiega, eccetera, è estremamente importante far percepire la qualità agli utenti. Quindi questo cosa vuol dire? Che abbiamo un blog, abbiamo delle video interviste, abbiamo dei podcast con medici ed esperti nel settore materno-infantile, dove noi praticamente forniamo agli utenti informazioni gratuite su come affrontare i vari problemi che le mamme hanno e avranno. Quindi questo crea un forte trust nella mamma, per cui automaticamente si fida di noi delle informazioni e di conseguenza si fida di noi anche del prodotto. Allora, a questo punto andiamo online tutti quanti e riassumiamo: prendete carta e penna, come avevamo detto, i vostri device, lo dico agli ascoltatori, e via con gli appunti. Chiediamo appunto al nostro e-commerce specialist quali indicazioni, app e siti per formarsi, informarsi e perché no per trovare lavoro. Qui trovate appunto sia la ricerca e dove si può trovare questo lavoro, ma trovate anche consigli per la formazione della tua figura. Allora, ci dai qualche consiglio? Sì, allora, una piattaforma che penso molti conoscono si chiama Udemy, è una piattaforma di e-learning, e lì si possono trovare tutti i corsi che riguardano il marketing, e-commerce, eccetera, eccetera. Dove invece si può fare networking, quindi cercare opportunità di lavoro, vedere cosa fanno gli altri, confrontarsi, basta banalmente andare su Facebook e cercare tra i vari gruppi l'argomento di interesse, quindi marketing, Facebook advertising, Google advertising, e il mondo è pieno zeppo di questi gruppi, e lì, anche lì, ogni dubbio lo si chiede nel gruppo e ci sono tantissime persone disposte, insomma, a dare una mano, anche molto esperte. E poi l'altra cosa, l'altro canale che uso spessissimo sono i podcast, quindi sui podcast anche qua dipende uno su cosa vuole formarsi. Per esempio, io all'inizio sono partito con Amazon e mi guardavo The Amazing Seller, si chiama il podcast, e quindi questo è relativo ad Amazon, per tutti gli argomenti ce n'è uno, insomma, e quindi questo è un ottimo canale per fare formazione nei tempi morti, mentre si guida, mentre si sta nell'autobus, in metro, eccetera, eccetera. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it